Fu l'ultima frase a lasciare il segno. Aveva usato una terminologia obsoleta di tempi remoti, in cui lui nemmeno era nato. Il Frank ne ignorava il senso storico, ma non la sostanza. Lucifero era entrato nei miei pensieri. Non a caso, sapeva come e dove colpire i miei nervi. Io non risposi, mi schifai della sua solidarietà. Nemmeno alzai il viso per guardare da dove venivano quelle parole, convincendomi che forse erano già dentro di me. Continuai il giro dell'alimentazione della linea. Misi le cuffie senza musica, batterie scariche, eroina in calo. Pagheranno caro, pagheranno tutto. Il Frank non mollava, le sue parole infette in quel momento erano ossigeno. Che ne pensi delle facce di merda? Ridono, parlano di cazzi loro e tu giri come un cane rognoso con il tuo carrettino. Sarebbero da gambizzare, non credi? Come una volta, come ai tuoi tempi. Senti, non sono così vecchio. Sono nato nel 67. Ero bambino quando sparavano a certi come quelli lì, o a gente come tuo padre. Sono nato nel 67. Ero giovane negli anni 80. Che cazzo avrei potuto fare se non vivere il senso di colpa della mia generazione inutile, che doveva ringraziare per un posto di lavoro e non rompere le palle? Il capannello di signorotti era composto da miei coetanei, ma loro non erano coscienti del disastro storico. In realtà, almeno un paio di elementi sarebbero stati davvero da gambizzare, per come avevano gestito la forza lavoro dell'azienda, per le ineguaglianze che avevano permesso, per i lavori di comodo che avevano concesso a personaggi lugubri, per il mio siluramento, per non avermi degnato di spiegazioni. Perché indossano solo camice e polo, per ragioni che non conosco nei dettagli, ma loro sì. Uno dei dirigenti in ascesa cosmica ha la fisicità di un ufficiale nazista e di un maghrebino, al tempo stesso. Il suo sorriso affilato è una smorfia infinita nel tempo e nello spazio. Alzo lo sguardo e lo vedo al finestrone mentre fissa le formichine giù di sotto, con il telefono incollato all'orecchio. Riconosco la superiorità della sua razza. Razza padrona. L'officina brulica di anime dannate senza speranza. Per quel che ne so, l'ufficiale è davvero efficiente. Le sue capacità sono innegabili. Scrivania ordinata, cervello saldo, doti naturali sviluppate da studi universitari. La sua ascesa è meritata, inevitabile. Di certo si è tutelato, sa che questo luogo ha i mesi contati e sta valutando altre offerte di lavoro. Sì, sarebbe da gambizzare, per come la razionalità darwiniana si manifesta in questo inferno senza più alcuna mediazione, nessuna ipocrisia. Da gambizzare, almeno dal punto di vista della mia trincea, del mio carrettino, che è umiliazione pura. Un punto di vista non deve essere necessariamente la verità. La verità è un intralcio alla mia determinazione. Ma chi, in questa fogna maledetta, non sarebbe da gambizzare? Una ragazza era stata assente un paio di giorni, poi era rientrata, sfuggente e taciturna. Giovedì mancava. Un gruppo di operaie a fine turno parlottava a bassa voce. Alla nostra età le assenze sono giustificate solo da lutti, malattie, esami clinici. Era deceduto il padre. 8 persone avevano chiesto 4 ore di ferie per le esequie. Volevano essere vicine alla collega. Mentre ne parlavano, sedevo poco lontano, ma in disparte. Sentii distintamente le parole della moglie di un finanziere. Aveva valutato che questo funerale si aggiungeva alla carenza di personale per malattia. Si abbasserà la produzione e ci bruceremo i prossimi ponti. Questa era stata la considerazione della donna. Volevo dirle che nell'ultimo semestre la domanda del cliente era scemata del 34%. Il trend era fatalmente destinato a franare in tempi relativamente brevi. Scelsi di tacere e di ascoltare le sue parole oscene. Chi dunque, ditemi, non sarebbe da gambizzare? Chi salvereste o condannereste? La figura paterna è definitiva. La sua morte è il confine ultimo tra la giovinezza e l'età adulta. Il padre è la persona che ci ha insegnato ad andare in bicicletta. Ci ha tenuto per le spalle per qualche metro, poi ci ha lasciato andare, per la nostra strada. La prima volta siamo caduti, poi tutto è sembrato facile. Non lo è stato. La ragazza che ho preso per il collo sta fuori di casa a 11 ore. Ha avuto una giovinezza breve e inesplorata. Ha figliato presto. A casa, 2 marmocchi accudite dalla madre si ammazzano a ripetizione nei mesi invernali. deve ricorrere a permessi non retribuiti o mangiarsi giorni di ferie. Ha un marito, forse è l'unico uomo della sua vita, che non l'aiuta nei lavori domestici. Non sa nulla della crisi storica della sinistra, delle contraddizioni del capitalismo e del libero mercato, del turbo capitalismo che ci sta strozzando, delle incongruenze nella vicenda del rapimento di Aldo Moro, dei fatti di Genova, dei pestaggi alla Diaz. E vive lo stesso, dignitosamente. Fino a oggi mi sono masturbato di cinema, libri, teatro. Un mare di informazioni mi ha invaso, rendendomi debole e insicuro, come avessi bisogno di flussi continui di parole o musica. Creperò con un cancro al cervello, se quello allo stomaco non fa in fretta. Lei deve provvedere a bisogni molto concreti di altri esseri umani. Mi ricorda che siamo animali handicappati e al tempo stesso molto evoluti, ma sempre animali. Nonostante lavori a 30 km da casa, riesce a gestire le attività domestiche. Io allevo solo la mia malattia, il mio odio. Lei ha una vera ragione di vita. È utile ad altri esseri umani, alla sua cucciolata. Non è poco. Non sa nulla della bomba alla banca di Milano del dicembre 69 che ha aperto la stagione di piombo. Non sa nulla dell'assassinio di Mario Calabresi e degli aspetti imbarazzanti della vicenda. Era giusto eliminare un servitore dello Stato che stava depistando al primo livello le indagini su una strage? Vorrei farle questa domanda a bruciapelo. Lei dovrebbe ribattere chiedendo se ho mai montato una libreria IKEA. Sarei in grado di cambiare un neonato con la diarrea senza vomitare? Disperdo ogni energia in una forma di passiva critica che paralizza. Fecero bene a silurarmi. Chi più di me lo meritava? Hanno la ragione dalla loro parte. E pagheranno. Saranno puniti. Conosceranno il dolore. Proprio perché hanno ragione. Rifornire il fuoco centrale è un onore. È da duri e puri. Le operaie non hanno pietà né furbizie, sono api resi folli dall'inquinamento e dall'innalzamento della temperatura. In realtà basterebbe poco per rendere umano il rifornimento del fuoco centrale. La facilitatrice potrebbe rompere qualche scatola nei momenti più roventi, si potrebbero utilizzare i carrellisti quando non sono impegnati nelle fasi di carico e scarico. L'illogicità, la totale mancanza di sensibilità mi atterrisce e mi affascina. Tutto è dilatazione, fatalità. Le sue contraddizioni sono elettricità per i miei nervi. Questa macchina infernale mi rapisce. Non protesto. Dà forma e sostanza al mio masochismo inerte. Le altre persone che hanno fatto il mio stesso lavoro stanno saltando tutte, una dopo l'altra. Chi mutua, chi ha cambiato linea perché non riesce a mantenere il ritmo o per ragioni oscure. Avranno tramato, avranno piagnucolato. Io non parlo con nessuno, non mi lamento apertamente, mugugno amaro e sputo bacilli, ma le dico in silenzio. Alcune ex colleghe portarono certificati medici, vaneggiavano di tendiniti che nessuna radiografia poté confermare. In realtà anch'io inizio ad avere acciacchi, ma tiro dritto. I nervi che dal centro del palmo delle mani arrivano alle dita mi fanno male, sono le mie stimmate. Sto soffrendo anche a scrivere queste pagine. Digitare e muovere il mouse mi è penoso, però come serviceman, state certi, sono il migliore di sempre. Nessuna capolinea si è mai potuta lamentare. So essere forte e rapido come un rettile nel rifornire le postazioni. Mi nutro di odio e di eroina tagliata troppo, non mollo la trincea. Schizzo come un gnomo impazzito, aumento di intensità le battute a sfondo sessuale, cerco di mettere le mani addosso alle più carine. Sono l'agnostico che più crede, che rende gloria alla divinità che lo schiaccia. Sono fedele nei secoli alla mia azienda, non faccio mutua e non porto certificati medici per avere alcuna esenzione. Non chiedo sconti di pena, non cerco altri lavori. Sono stato irreprensibile e martirizzato, per non concedermi scrupoli. Quando sarà tempo di colpire senza pietà. Il Frank da lontano mi guardava e scuoteva la testa. Ero ormai senza speranza. Ero perduto. Pochi minuti dopo si materializzò dietro una colonna. Cercava di stancarmi con calma, senza strattoni, come fossi una carpa. Sapeva bene che se avesse esagerato, la bava si sarebbe rotta. «Perché colpisci i cassoni? Hai tutte le mani deformate. Forse hai una mano rotta. Almeno rompila in faccia a qualcuno. Fai schifo, hai tutte le unghie marce». «Potrei colpire te?» Non aspettano altro, una scusa per buttarmi fuori. Non vale il mutuo della casa, non vali un cazzo. Sembri un barbone. Se non mi fossi simpatico, mi faresti venire voglia di darti fuoco, di incendiare la tua macchina con il tuo cadavere dentro. La tua auto è indietro di 3 restyling del modello. Non ti vergogni? Ma che cazzo vuoi da me? Di preciso. Voglio che smetti di arrossire quando parli con me. Sembri una figa. Voglio che ti eserciti meglio. Se devi fare il pazzo, almeno cerca di mettere paura. Cerca di essere davvero pericoloso, dannoso. Mi servi fuori di testa, ma determinato. Ho una mazza da baseball stesa nel sedile dietro. E poco da perdere. Bravo, vecchio. Pensi che possa bastare una mazza da baseball per regolare i conti con questo posto di merda? Ma ti sei visto? Mio padre ha una cassaforte piena di armi da fuoco di tutti i tipi. Devo dirti dove puoi metterla, la tua mazza? Tu stai sul cazzo a tutti. Tu finisci di là, allo stampaggio a fare i turni. E buttano via la chiave. Che ne sai dello stampaggio? Nulla. Ma le donne dicono che tu finisci lì. In mensa raccontai che le mappe aziendali affisse in giro erano state modificate in modo artistico, interrompendo una discussione che aveva preso una strana piega. La donna al mio fianco aveva chiesto come stava il cagnolino della coppia di coniugi seduti di fronte. Puntura di fermenti lattici, merda molle, quasi liquida. Ecco come stava il cagnolino. I miei stessi sintomi. Potevo chiedere qualche fiala ai padroncini. Insomma, le mappe aziendali sono poste in vari punti e spiegano come raggiungere le vie di fuga in caso di incendio. Sono previsti percorsi ragionati e luoghi di aggregazione. Di solito nessuno fa caso a queste mappe. Sono state fatte un paio di simulazioni di emergenze che nessuno ha preso sul serio. Qualcuno sulle piante aveva contrassegnato in rosso alcune zone. Quella con la macchia più evidente era la mensa. Nessuno si era mai preso la briga di osservare le mappe che delineano il profilo del complesso a blocchi che forma il nostro sito industriale. Tutti sono presi da pensieri più concreti. Mi sembrò una cosa sospetta. Chi aveva pasticciato le mappe si era preso il tempo di rimuovere il plexiglass, schizzare di rosso la carta millimetrata, evidenziare alcuni segmenti con un pennarello blu, poi aveva rimesso il quadro al suo posto. E aveva ripetuto l'operazione almeno 6 volte. 6 erano le piantine che avevo individuato. Ognuna differiva dall'altra per pochi particolari, come andasse a descrivere un'azione in successione. Ma non riuscivo a decifrare un ordine, una cronologia, il disegno d'insieme, se mai dovesse esserci. Chiesi lumi alle persone sedute al mio tavolo. I commensali non mi considerarono. Non avevano capito una parola. Continuarono a parlare di merda di cane liquida. I pensieri affollavano il mio cervello, ma tutto rimaneva abortito dentro di me. Forse non riesco più a formulare frasi comprensibili. La vita interiore ha preso il sopravvento. È così che si esce definitivamente di senno. O forse no. Ti piace la mia mostra? Ti avverto che le opere non sono in vendita. Mi basta sapere che almeno un critico accorto come te le abbia capite. Inutile parlarne con gli idioti a questo tavolo, non capiscono l'arte. Pensa che il rosso nelle piantine è sangue umano. Il Frank si era seduto al mio fianco. Lo spazio era stretto e con un gomito aveva colpito alla tempia un informatico che da qualche mese era passato ad un centro di costo esterno al nostro stabilimento. Non si era scusato, parlava a mezza voce. Il suo cabaret era misero. Aveva chiesto solo un petto di pollo e mezzo litro d'acqua. Niente pasta né contorno. Le signore della mensa avevano insistito perché prendesse almeno un contorno. Sono materne quando vogliono. Il Frank aveva nello sguardo la vivacità di un animale selvatico. Le sue parole avevano disperso gli ultimi impiegati che si erano allontanati. Non toccava il cibo. Le fibre muscolari del pollo riposavano intatte. La schiuma bianca ai lati della bocca e le sue pupille dilatate annunciavano droghe sintetiche in circolo. Parlava a voce troppo alta. Poteva essere pericoloso, ma i segmenti di frase venivano intesi dai vicini di tavolo come aneddoti legati al mondo televisivo. Succede sempre così. È l'unico immaginario che frequentano, a parte quello aziendale. Sono tutte vittime ideali, agnelli al macello, innocenti, corrotti. Le creature ingenue e innocenti sono le più colpevoli, delinquenti che non delinquono, bombe disinnescate. Non riesco più a giustificarli, non li sopporto più, non sopporto me stesso in questo contesto. Sono fuori controllo, ho le vene e le arterie occluse, incrostate di eroina. Il Frank aveva trovato le parole giuste, come un demone che già risiede da qualche parte del mio cervello e che aspetta solo il momento per manifestarsi. Un mostro che dà sostanza ai miei malesseri. I tre che erano seduti al nostro tavolo avevano lasciato la sala. Continuavano a parlare di vermi intestinali, poi di Gardaland. Io non potrei avere figli. Poi dovrei portarli in luoghi come Gardaland, Aquafan o alle fiere paesane. In realtà non voglio fermarmi alla pittura. La mia, cioè la nostra, sarà una vera performance. Sto pensando anche al tappeto sonoro e a come diffondere la musica. Sto pensando a come bloccare le vie di fuga, gli uffici e i personaggi che per nessun motivo possiamo farci scappare. Se hai qualche segnalazione, parliamone. Qualcuno da salvare. Conosci questo cesso di posto da 20 anni. Mi sto occupando dei dettagli. Adesso ti alzi, esci da questa sala, scendi le scale, vai nel cesso dei maschi, butti tutta l'eroina che ti rimane e tiri lo sciacquone. Ti voglio lucido e incazzato. Nessuna medicina. Se vuoi medicine, chiedi a me. Erano parole armoniose. Mi decomprimevano l'anima. Vedevo tanto sangue innocente. Vedevo gente piangente chiedere pietà sapendo bene di non meritarla. Sentivo i vermi intestinali del cagnolino che si agitavano nella mia calotta cranica. Vedevo nuclei familiari con cagnolino chiusi nella tana a guardare quiz televisivi e a recitare sempre le stesse idiozie. Nelle parole del Frank vedevo la luce. Non mi sarebbe dispiaciuto essere ricordato come il teorico dello stragismo aziendale. La mia risposta virò dalla parte opposta rispetto ai miei pensieri. Di che cazzo parli? Tu finisci allo stampaggio. Ti hanno già destinato allo stampaggio, con i matti. Non sono cazzi tuoi e non è vero. E lo sai qual è la cosa peggiore? Che ti abituerai anche a quello, in silenzio. Anzi, sarai lo stampatore migliore, da vomitare. Ma tu, chi mi rappresenti? Sono la miccia e tu sei pronto per esplodere. Questo figlio di puttana aveva ragione. Sembrava leggermi nel pensiero dal primo giorno. Le mie difese erano annullate. Stavo cedendo. Stavo pensando a una colonna sonora durante i fuochi d'artificio. Ma vaffanculo. Vabbè, tanto ho già scelto io. So che i Muse ti piacciono. Tirò fuori due piccole chiavi e me ne mise una dentro al piatto vuoto. È la chiave del mio armadietto. In fondo troverai una borsa di cuoio. Dentro c'è una mitraglietta molto piccola e leggera. È carica e non è difficile trovare la sicura. Anche uno come te può far danno con un giochino così. Papà non sarà affatto felice. Ho preso in prestito il pezzo migliore della collezione. L'unico non denunciato. Per il mondo non esiste. Appoggi il ditino sul grilletto e quella spara a ripetizione. Il rinculo è poco più che un massaggio con vibratore. Stacchi il ditino un attimo. Ti godi lo scompiglio, il sangue, le grida. Alcuni chiederanno pietà. Nessuna pietà. Ricordati le umiliazioni, lo schifo. Se non ti hanno ancora fermato, appoggi ancora il ditino e godi di nuovo. E tu? Io mi sono occupato della colonna sonora. Ho messo due buone casse nel corridoio della mensa, nei vani della reazione. Ti sembrerà assurdo, ma non se ne è accorto nessuno. L'ho fatto in orario di lavoro. Noi carrellisti abbiamo un sacco di tempo libero. Quando ti vedrò in mensa, spingerò play e partirà Apocalypse Please dei Muse. Dura 4 minuti e 47 secondi. Possono essere lunghissimi. Falli diventare lunghissimi. Vorresti dire che tu sarai in mensa? Io sarò seduto qui, dove sono adesso, immobile. Sono l'unico che rimarrà seduto. Tu spara solo quello che si muove. Come ti vedranno entrare armato, scapperanno come topi. Non voglio perdermi lo spettacolo. E se ti dovessi colpire? Io non ho mai sparato. Cerca di starci attento. E se mi venisse voglia di colpirti? Se stai fermo, è più facile. Vedi tu, il gioco a quel punto lo conduci da solo. Io ho fatto abbastanza. Sei fuori di testa. Almeno quanto te, sono sicuro. Di cosa? Non so, che non mi deluderai. Il Frank si alzò e abbandonò la mensa. aveva un'aria più matura, meno arrogante, come se fosse deluso da qualcosa o fosse improvvisamente invecchiato di una decina d'anni. Non aveva toccato cibo. Aveva sostanze chimiche in circolo che inibivano la masticazione, regalando forza e lucidità inesauribili. Prima di sgusciare verso il corridoio, mi strizzò l'occhio. Io stavo bene, come non lo ero da tempo, come non lo ero mai stato. Il suo posto venne occupato dalla segretaria di Marani, che arrivò trafelata, senza nemmeno accorgersi della mia presenza. In genere mangia velocemente, non si ferma un'ora completa, parla solo di lavoro, ogni sua cellula è concentrata su doveri. Deve assolvere in piena efficienza incombenze aziendali e familiari. Ero incredulo. La sua presenza al mio tavolo era un omaggio del destino che non ero certo di meritare. Pensai che fosse una specie di regalo del Frank. Iniziavo davvero a pensare che avesse poteri paranormali. Dovevo dire qualcosa. Dovevo rischiare la gaffe o non mi sarei perdonato. L'occhiolino del Frank era una sfida silenziosa. Arriva la signorina Silvani. Vediamo come te la cavi. Fai acqua gym? Dici a me? Mi pentii immediatamente di quelle parole. Avrei dovuto continuare a masticare in silenzio, a mostrare rancore e asocialità, a tenere alte le difese. Nel tavolo di fronte, due stagiste all'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Commerciale commentavano la mattinata in ufficio, parlottavano con la mano conchiglietta davanti alla boccuccia. Ridevano di quei vecchi ammuffiti che gli avevano mostrato il lavoro, di schiavi seppelliti vivi nei loculi, i monitor posti come lapidi. Pensavano di avere una vita luminosa davanti. Il loro futuro è recessione economica, precarietà, vita alle spalle dei genitori pensionati. Non sono attrezzate per combattere al limite della miseria, per fare rinunce. Sentì il bisogno impellente di alzarmi e di rimproverarle. Smettetela di ridere, troiette. Invece, imboccai il vicolo della gaffa senza ritorno. Beh, qualcosa farai. Pesi, lavori aerobici, nuoto, spinning. Quelle due diciottenni si potrebbero baciare i gomiti, se la tua età... Quale età? Insomma, non sei, voglio dire, cioè, nel senso... Non ho tempo di fare palestra, ho due figli. Ecco, appunto, hai anche due figli. Non anche... Ho soprattutto due figli e un marito. Vecchia puttana maledetta. Quelle come lei devono sempre rivendicare la maternità, la tana, il maschio che ha depositato il seme, ma solo quando interloquiscono con un esemplare di maschio adulto per il quale non provano alcuna attrazione fisica. L'avevo vista alla macchinetta del caffè con il Frank, con le sue moine, con la sua cioccolata eco-solidale di merda di negro. Non ce la fa a non mettersi in gioco, sa di avere un fisico invidiabile, sa di non possedere altri meriti. Aveva figliato, non è un merito, è un dovere della sua specie, il primo. È un istinto animale per le scimmie. Io sono altro. Voi siete produzione e riproduzione. Produzione e riproduzione. Produzione e riproduzione. Questo siete. E non avete pietà. Non avete pietà di me, che sono migliore del Frank. Che sono migliore di chi vi ha depositato il seme in grembo, che sono il migliore di tutti voi.